GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Confronto difficile a Monfalcone sul caso dei centri islamici. In attesa della discussione nel merito, Cisint chiama in causa Fincantieri. Poco meno di 6.000 candidati per 1.000 posti da docente, partito anche in regione il nuovo concorso nazionale. Le medie di San Giorgio di Nogaro chiuse per criticità legate al rischio sismico, sistemazioni alternative, ma cresce la protesta. In 5 anni serviranno oltre 75.000 figure professionali, il fabbisogno del lavoro nello studio Union Camere. Prospettive incredibili, come l'intelligenza artificiale può rendere la sanità più efficiente, incontro sul tema a Trieste. 3 punti verso la salvezza, l'Udinese batte per 2-1 la Lazio all'Olimpico. Succede tutto a inizio ripresa, Lucca e Zarraga a segno. 7:19 di martedì 12 marzo, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Subito uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 6 a Trieste 9 gradi, a Pordenone 7 gradi, a Gorizia 6 gradi e mezzo, a Udine 6, a Forni di Sopra e a Tolmezzo 3 gradi e mezzo, sul Piancavallo 1 grado e 5 decimi. A Sappada 5 decimi di grado positivi, a Tarvisio 0 gradi. Sul monte Zoncolan 5 decimi di grado sotto lo zero, sul monte Lussari meno 1 grado, sulla costa Grado e Lignano 9 gradi e mezzo. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Al mattino il cielo sarà da nuvoloso a variabile. Nel pomeriggio nuvolosità meno consistente con schiarite a partire da ovest, ma saranno possibili rovesci sulla fascia prealpina o sull'alta pianura. Nella notte possibili nebbie sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. Subito la cronaca, una donna è rimasta ferita in seguito a un'esplosione avvenuta nelle prime ore di questa mattina nel vano caldaia di una villetta a 2 piani a Codroipo in via Salvo d'Acquisto. La donna, una 60enne, ha riportato ustioni a volto e braccia. I sanitari stanno valutando l'entità delle lesioni. Sul posto impegnati i vigili del fuoco di Udine. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da una fuga di metano. Per i musulmani è cominciato il Ramadan a Monfalcone in attesa del giudizio di merito sullo stop alle preghiere nelle sedi dei centri culturali islamici. Decisa dal sindaco Anna Maria Cisint, un nuovo decreto del Consiglio di Stato conferma le motivazioni del precedente pronunciamento, invitando le parti al confronto. C'è un nuovo decreto del Consiglio di Stato sulla questione Ramadan a Monfalcone, ma nella sostanza per ora nulla cambia, almeno fino al 19 marzo, quando si terrà l'udienza sulla sospensiva dell'ordinanza comunale che inibisce l'attività di culto nei 2 centri islamici della città per violazione della normativa urbanistica. Il giudizio era stato chiesto d'urgenza dagli islamici perché a loro dire il comune non rispettava il decreto precedente che disponeva un confronto con la controparte. L'istanza chiedeva che si potesse subito pregare nei 2 luoghi chiusi dall'amministrazione anche attraverso un commissario ad acta. Su questo dal giudice è arrivato un no in attesa appunto dell'udienza del 19. Tuttavia l'avvocato Vincenzo La Torraca sottolinea un altro aspetto. L'invito per la seconda volta da parte del presidente ad un confronto dell'amministrazione comunale con le associazioni, proprio per individuare qual è la soluzione provvisoria per poter svolgere il Ramadan e quindi per poter preservare il diritto al culto. Secondo la sindaca di Monfalcone, Anna Cisint, i posti alternativi sono stati tuttavia già individuati dalla questura nella prescrizione di divieto della preghiera in piazza sotto il municipio. I siti sono le Terme Romane e la Salita alla Rocca. Da Cisint infine arriva l'esortazione a Fincantieri affinché si faccia parte proattiva nel risolvere questi e altri problemi. Sento un gran silenzio da quella parte e mi dispiace molto, perché la ragione per cui a Monfalcone c'è il 68% di tutti i bengalesi del Friuli Venezia Giulia è molto chiara a tutti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. È convocato per questa mattina al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo dedicato alla gestione della crisi Electrolux, al centro del confronto al quale prenderà parte la Regione con l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Ci sono i 181 esuberi annunciati dalla multinazionale svedese per le sedi di Porcia e di Pordenone. Al via ieri il concorso per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria. Domani e nei giorni successivi sarà la volta del concorso per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. A sorprendere è per ogni ordine il basso numero di candidati. Poco meno di 6.000 i candidati da e fuori regione al migliaio di posti da insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado aperti in Friuli Venezia Giulia dal nuovo concorso nazionale al via in tutta Italia. Il dato è dell'ufficio scolastico regionale. La dirigente Beltrame segnala che altrove nel paese le domande sono state molte di più rispetto ai posti disponibili e che in regione si sono presentati in meno del previsto anche alla prova scritta digitalizzata per scuole dell'infanzia e primaria appena svolta nelle aule informatizzate di vari istituti e che per la prima volta punta a testare anche l'attitudine all'insegnamento. Dal 13 al 18 marzo toccherà ai candidati per medie superiori, subito a seguire gli orali per tutti, con l'obiettivo di fare le emissioni in ruolo entro il termine fissato del 31 agosto, nonostante il poco personale a disposizione, spiega Beltrame, che confida anche nella collaborazione dei dirigenti scolastici per le commissioni. Ancora da bandire invece il concorso per l'insegnamento nelle scuole slovene, 40 i posti disponibili. Delusi sui numeri i sindacati, il segretario regionale dello SNALS, Grisi, segnala che solo per la scuola primaria da questo concorso in Italia entrerà in ruolo un insegnante su 5, mentre in Friuli Venezia Giulia 1 su 2, a fronte però di docenti sempre più introvabili, secondo il sindacalista anche a causa del numero chiuso nelle facoltà di scienze della formazione. 23.400 euro lordi l'anno di retribuzione per un comparto che in regione ha un tasso di precariato del 30% non attirano nessuno, rincara il segretario regionale della FLCCGL Gargiulo, che lancia l'allarme sui numeri dell'area sostegno. 0 domande per 4 posti disponibili nell'infanzia, 14 per 173 posti nella scuola primaria e appena 5 per 34 posti alle medie. Dal fronte dei dirigenti scolastici, intanto, il presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi Gervasutti considera ormai superata questa modalità di selezione, doppione del percorso di laurea. Per ANP di un futuro docente, invece, dovrebbero essere valutate la motivazione al proprio lavoro e le competenze relazionali, caratteristiche non necessariamente possedute da un ottimo conoscitore della materia. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. E continuando a parlare di scuola, a metà della scorsa settimana il comune di San Giorgio di Nogaro ha chiuso la scuola media dichiarandola inagibile. Per alcuni dei 180 alunni delle medie è stata trovata una soluzione provvisoria, ma cresce la protesta tra i genitori. Più di 180 alunni alle scuole medie in sedi provvisorie, oltre 150 adulti che non sanno ancora dove fare corsi pomeridiani e serali. Giovedì scorso il comune di San Giorgio di Nogaro ha emanato un'ordinanza di chiusura dell'edificio delle medie Nazario Sauro fino a nuovo ordine, sulla scorta di una relazione degli uffici tecnici. Siamo molto molto arrabbiati, ma più che protestare siamo a chiedere chiarimenti. Siamo molto d'accordo sul fatto che se la scuola non è in sicurezza deve essere chiusa, però il piano B doveva essere a monte, cioè già da giugno, se non parliamo di anni. 5 classi hanno trovato ospitalità nelle vicine elementari, altre 4 classi, dopo un periodo in altre sedi, troveranno sistemazione in locali della parrocchia a poca distanza per limitare il disagio. Ma, come indica il presidente del consiglio d'istituto, lo spettro di una didattica frammentata ha già fatto calare le iscrizioni per il prossimo anno del 10%. Il primo cittadino del Frate critica la passata amministrazione per aver perso un finanziamento da quasi 2 milioni di euro per l'adeguamento sismico. Nell'agosto 2022 si inizia lo studio per la fattibilità di una nuova scuola da 7 milioni di euro. Un anno dopo la richiesta di contributo alla regione, che però non viene accolta. Troppo tardiva la richiesta, non motivata con carattere d'urgenza, ha rilevato la regione, e anche se si fossero trovati i fondi sarebbe stato impossibile arrivare alla data odierna con una nuova sede. L'opposizione, intanto, ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale. San Giorgio di Nogaro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. 63 stabilizzazioni di personale di ricerca tra Crodi Aviano e Burlo Garofalo di Trieste. Ad annunciarle ieri l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, commentando la conclusione degli iter nei due istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Il provvedimento riguarderà 25 ricercatori sanitari e 17 collaboratori professionali per il centro di riferimento oncologico di Aviano, mentre l'ospedale materno-infantile di Trieste avrà 11 ricercatori e 10 collaboratori di ricerca. Superata la norma che limitava a 5 anni contrattuali il ruolo dei ricercatori nel servizio sanitario regionale. La stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato permette a figure chiave dell'innovazione della sanità di dedicarsi alla ricerca, ha detto Riccardi, secondo cui il superamento del precariato sarà uno stimolo per i professionisti per dedicarsi con rinnovato impegno al lavoro, consentendo agli istituti di pianificare l'evoluzione della ricerca sanitaria, processi strategici per innovare le cure e di migliorare la presa in carico e offrire al paziente nuove soluzioni. Oggi in quarta commissione, a partire dalle 10, verrà illustrato il disegno di legge 16 sulle strategie di sviluppo del sistema territoriale in materia di infrastrutture, con le audizioni dei portatori di interesse, dall'Associazione Nazionale dei Comuni ai porti della Regione, poi Confindustria, le associazioni dei costruttori, quelle artigiane dell'agricoltura, i consorzi di sviluppo e di bonifica, la soprintendenza, le associazioni ambientaliste. A inizio lavori della commissione anche la risposta all'interrogazione del consigliere di Open Sinistra FVG Onsel sulla realizzazione della ciclabile lungo la vecchia linea ferroviaria carnica. Incontro pubblico SOS Sanità organizzato da Azione. A Gorizia alle 18.30 in Sala Marcuzzi, Pastor Angelicus di Via dei Rabatta, si parlerà dello stato della sanità pubblica in Italia e in Friuli Venezia Giulia con Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica, rappresentante dell'Italia nel Consiglio Esecutivo dell'OMS, già presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e Roberta Chersevani, presidente dell'Ordine dei Medici di Gorizia e già presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici. E si parlerà di legge regionale sulla disabilità, di interventi a favore delle persone con disabilità e di riordino dei servizi sociosanitari, oltre che della situazione di Asugi nel territorio isontino, oggi a Gorizia, all'auditorium dell'ospedale Fate Bene Fratelli, dalle 16.30 alle 18.30. L'incontro è organizzato dalla consulta regionale e da quella territoriale isontina ed è dedicato in particolare alle famiglie che potranno confrontarsi con i referenti a Asugi, tra cui il direttore dei servizi sociosanitari Antonini, il direttore della struttura complessa disturbi dell'età evolutiva Cernice e il direttore della struttura complessa disabilità adulti STEA. La consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia organizza inoltre a Udine la cerimonia per l'assegnazione di due premi di laurea a due tesi distinte in politiche e interventi riguardanti i diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, nella sala Pasolini della sede della Regione a Udine alle 11. Parliamo adesso di lavoro, un fabbisogno di 75.000 posti da quest'anno fino al 2028 e la stima per il Friuli Venezia Giulia che emerge da uno studio delle Camere di Commercio. Serviranno soprattutto figure professionali qualificate nelle attività commerciali e nei servizi. 15.000 in ingresso nei prossimi 5 anni. Il quadro del fabbisogno occupazionale lo dà il rapporto di Union Camere, che prevede una domanda di 75.100 figure in Friuli Venezia Giulia dal 2024 al 2028, pari al 2,1% del fabbisogno nazionale. Saranno, secondo le stime, 4.800 le richieste nelle attività ricettive della ristorazione e 4.700 in quelle commerciali. Nelle professioni tecniche, 14.300 inoltre, tanta richiesta di addetti alle funzioni di segreteria, 6.500 figure, e fra le professioni non qualificate nel commercio e nei servizi, 6.100. Il fabbisogno totale del quinquennio somma le 7.000 unità della componente che evidenzia gli andamenti relativi alle richieste del mercato e la componente legata invece direttamente al turnover dei lavoratori che andranno in quiescenza, 68.000 unità. L'Ufficio Statistica Camerale ha anche evidenziato che in regione le figure professionali di alto profilo saranno circa 29.300, il 39% del totale, mentre impiegati e professioni commerciali e dei servizi copriranno il 35% del fabbisogno complessivo, per un ammontare di 26.500 lavoratori. I dati sul quinquennio sono ovviamente solo una stima, ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Da Pozzo, ma aiutano comunque ad avere il senso delle aspettative di medio periodo delle imprese. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà presentato oggi il 7° rapporto sul diritto d'asilo a cura della Fondazione Migrantes, studio sul sistema della protezione internazionale e dell'accoglienza in Italia, con uno sguardo sulla situazione europea. Si tratta del primo incontro del percorso di formazione Capire le migrazioni internazionali, che si terrà a Trieste fino al 14 maggio. Introduce Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, alle 17.30 al Centro Culturale Veritas di Trieste. La possibilità di partecipazione è solo online. A Trieste dalle 18.15 nell'auditorium del Museo Re Voltella si svolgerà l'evento Trieste Mistica organizzato dall'Università di Trieste, che affronterà il tema del dialogo interreligioso. Ospite dell'iniziativa sarà Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati, che parlerà di laicità e pluralismo religioso in democrazia. Previsti gli interventi dei rappresentanti delle principali comunità religiose presenti a Trieste. Anna Agus, responsabile raccolta fondi individui presso Terre des Hommes Italia, e Nicole Sperandio, operatrice umanitaria di Terre des Hommes Italia, presenteranno a Udine il dossier In Difesa sulla condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo, in occasione della prima giornata mondiale delle bambine proclamata dall'ONU. La campagna In Difesa, partita nel 2012, Terre des Hommes ha messo al centro del proprio intervento la promozione dei diritti delle bambine, impegnandosi a difendere il loro diritto alla vita, alla libertà, all'istruzione, all'uguaglianza e alla protezione, per rompere il ciclo della povertà e offrire migliori opportunità di vita a migliaia di bambine e ragazze nel mondo. Alla Libreria Friuli di Udine alle 18, evento organizzato con la Commissione Pari Opportunità del Comune. Presentata a Pordenone la campagna di sensibilizzazione per migliorare la raccolta differenziata, con una particolare attenzione alla corretta separazione di carta, cartone e tetrapack. Riciclare correttamente i cartoni per bevande e alimenti, imballaggi preziosi che possono avere nuova vita, è l'obiettivo della nuova campagna di Igea e Comieco rivolta a cittadini, scuole e grande distribuzione. Il presidente del CDA di Igea, Gianfranco Marino. La corretta differenziazione del contenitore in tetrapack è fondamentale. Nella nostra realtà siamo già in una posizione positiva, in quanto già il 2,9% viene conferito nella carta, mentre in regione siamo intorno all'1, 2, 1, 3% e lo 0,8% è a livello nazionale. Obiettivo: raggiungere il 3% di materiale tipo tetrapack nella raccolta della carta. Il beneficio economico stimato è di 90.000 euro di ricavi l'anno. I contenitori si gettano nel bidone della carta. All'impianto verranno separati e inviati a un riciclo dedicato in una cartiera specializzata di Verona, che ne ricaverà fibra per produrre sacchi. Il vice direttore di Comieco, Roberto Di Molfetta. Si riciclano nel flusso della raccolta differenziata della carta, quindi attenzione, non vanno nell'organico, non vanno con gli altri contenitori per liquidi, quindi nella plastica, mai, assolutamente mai nell'indifferenziato. Il consiglio pratico è molto semplice: svuotarli, piegarli. E in questo territorio il tappo può essere lasciato sul contenitore, perché appunto tramite la separazione poi verrà riciclata anche la parte di plastica. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. All'Università di Udine si parlerà oggi di sistemi urbani e territoriali verso la sostenibilità, il ruolo della ricerca, del monitoraggio e della partecipazione, in un convegno organizzato dal corso di laurea in Scienze per l'Ambiente e la Natura, in collaborazione con Legambiente Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento è per le 15 nell'auditorium della Biblioteca Scientifica. La coordinatrice del corso di laurea, Maria Eliana Poli, ci ha spiegato di che cosa si parlerà. La finalità di questo progetto è quella di far parlare direttamente la cittadinanza con l'università attraverso la presentazione del rapporto dell'ecosistema urbano fatto da Legambiente. Noi cercheremo di individuare quelle che sono le criticità di una sostenibilità ambientale all'interno delle città, però cercheremo anche di dare una risposta con gli strumenti che l'università sta mettendo in campo per migliorare questa sostenibilità, non solo all'interno delle città, ma anche all'interno dei territori più vasti. E infine cercheremo di presentare alcune good practice, quali ad esempio i progetti per contratti di fiume, che sono progetti che coinvolgono direttamente la cittadinanza nella decisione, nella progettazione di quello che il corso d'acqua può rappresentare all'interno di un territorio. Si parlerà di turismo della neve sulle montagne senza neve alla conferenza stampa organizzata da Lega Ambiente alle 11 a Udine in via Brigattare 29. Dopo l'introduzione del presidente di Lega Ambiente Friuli Venezia Giulia Sandro Carnielutti e di Wanda Bonardo, responsabile Alpi di Lega Ambiente, il glaciologo Renato Colucci parlerà degli esiti della crisi climatica sull'arco alpino regionale e Mario Di Gallo, referente regionale per la campagna Neve Diversa, delle valutazioni di Legambiente sugli investimenti della regione nei poli turistici montani. L'intelligenza artificiale entra nell'aula del Consiglio regionale per discutere insieme agli esperti delle università di Trieste, Udine e della Sissa sulle sfide, le opportunità e sulle possibili applicazioni nell'ambito della sanità. Si integra nei processi produttivi, viene utilizzata nelle assicurazioni, può aiutare a prevedere i flussi commerciali dei porti, ma può anche alterare la verità dei fatti e creare immagini e video falsi. È l'intelligenza artificiale, il nuovo orizzonte della tecnologia, arrivata per restare e forse per cambiare quasi tutto. Se ne è discusso in un incontro organizzato dal Consiglio regionale a Trieste, prima volta in Italia per una sede legislativa, un modo per fare il punto e cogliere le sfide che l'intelligenza artificiale pone tra le varie cose, anche la politica. Come spiega il vicepresidente dell'Assemblea Francesco Russo, coinvolto nell'organizzazione dell'evento con l'Università di Trieste e Udine e la Sissa, è importante governare l'intelligenza artificiale, ma anche con e attraverso di essa. Ma non c'è solo la politica. Se la novità dell'intelligenza artificiale e le sue implicazioni possono far paura, di sicuro uno degli ambiti applicativi più interessanti è quello della sanità, dove potrebbe essere addirittura rivoluzionaria. Andrea Di Lenarda, direttore della struttura complessa delle patologie cardiovascolari a Sugi. Le prospettive possono essere incredibili se pensiamo che l'utilizzo dei miliardi di dati dei nostri repository analizzati con queste tecniche potrebbero permettere una programmazione sanitaria molto più efficiente di quella attuale, potrebbero permettere di riconoscere il rischio dei malati, le malattie, le terapie più efficaci, potrebbero riconoscere, profilare, stratificare tutta la popolazione e quindi poter decidere come destinare le risorse più appropriate alle persone che hanno più bisogno. Una possibilità che però deve trovare armonia con la necessità di tutelare i dati personali dei pazienti. Un grande equilibrio tra il diritto delle persone a essere protette, e non ci piove, e possibilità di utilizzare questi strumenti innovativi per curarle al meglio. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora alcuni appuntamenti con gli spettacoli. Gianluca Guidi ritorna oggi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con uno spettacolo omaggio a The Voice. Sinatra, The Man and His Music, ripercorre la vita, gli amori e soprattutto i più grandi successi musicali di un uomo controverso per molti motivi, ma capace di incantare milioni di persone, accompagnando con la sua voce almeno 4 generazioni, alle 20:30. Il Politeama Rossetti di Trieste si anima di tanti giovani artisti che vogliono diventare delle star. Sono i protagonisti di Saranno Famosi, il musical diretto da Luciano Cannito, che sarà in scena oggi e domani alle 20:30, dall'omonimo film di Alan Parker del 1980 e dalla serie televisiva nata nel 1982 e replicata a lungo. Alla Sala Bartoli di Trieste in scena La felicità di Emma, liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Claudia Schreiber. Lo spettacolo è ospite del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia nell'ambito della proposta di scena contemporanea con Rita Pelusio alle 19:30, replica domani alle 21. Teatro e fumetto animato per raccontare l'immaginario della salute mentale. L'Oreste quando i morti uccidono i vivi e lo spettacolo interpretato da Claudio Casadio con la regia di Giuseppe Marini. Questa sera in scena alle 20:45 al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli per la stagione di prosa curata dal CSS di Udine. Lo spettacolo riflette sulla salute mentale e sull'amore negato. I disegni sono curati da Andrea Bruno con la collaborazione del Festival Luca Comics and Games e di Imaginarium Creative Studio. Con il concerto, il repertorio organistico per la sala da concerto di Davide Mariano, inizia la stagione dei concerti dei docenti del Conservatorio di Udine, che proseguirà ogni martedì alle 18 nella sede dell'Istituto in piazza Primo Maggio fino a giugno. A partire da sabato 23 marzo inizierà anche la stagione dei concerti degli studenti, che si esibiranno ogni settimana dalle 16.30. L'intento è di offrire alla città due appuntamenti fissi alla settimana, sia per un pubblico esperto che per semplici appassionati. Nella sala Tartini del Conservatorio di Trieste, per il ciclo Percorsi Cameristici per Giovani Talenti, Vento dell'Est con il trio Mirage, Wendy Reca violino, Enea Nusci violoncello, Elisa Milo pianoforte. A cura del maestro Romolo Gessi, direttore della sezione musica del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, alle 20.30 con ingresso libero fino a esaurimento posti. A Trieste, al Circolo della Stampa, alle 17.30 sarà presentato il libro di Vera Slepo e l'inconscio di Cortina, in poco più di 90 pagine. L'autrice, psicoterapeuta, scrittrice e giornalista, racconta la perla delle Dolomiti anche con le immagini fermate dall'obiettivo di Lorenzo Capellini. Il volume fa parte della collana I luoghi dei sentimenti, Minerva Edizioni, con cui le firme della letteratura italiana raccontano il patrimonio storico-artistico del paese. Ocio de Soto di Gianfranco Pacco sarà presentato alle 18 al centro commerciale Il Giulia di Trieste, all'interno di un ciclo di presentazioni organizzate con la casa editrice White Cocal Press, che si svolgeranno ogni secondo martedì del mese. E adesso lo sport, impresa salvezza. Ieri sera l'Olimpico di Roma per l'Udinese, che ha vinto 2-1 contro la Lazio. In classifica i bianconeri salgono al 13° posto e si allontanano di 3 punti dalla zona retrocessione. Samardžić in panchina, il Tucu Pereira subito in campo e Zarraga sostituto di Wallace. Cioffi mette nello shaker l'Udinese e imposta il cocktail della vittoria fin dall'inizio. Il palo di Zaccagni in apertura agita gli ingredienti bianconeri, che poi si amalgamano a dovere. Lovric e Zarraga suonano la carica con 2 missili verso la porta laziale, difesa dal pordenonese Provedel, chiamato subito dopo a fare il supereroe sul tiro di Camarà e sul colpo di testa di Giannetti. La pausa non distrae l'Udinese, che colpisce a inizio ripresa. Lucca torna al gol, il primo del 2024, deviando il tiraccio di Camarà. L'uomo giusto al posto giusto, prima del regalo di Giannetti, che con un autogol sul tiro di Zaccagni rimette tutto in pari. Per molto poco però, ci pensa Zarraga un attimo dopo dal limite dell'area a riportare la gioia in bianconero. 3 gol nei 5 minuti più importanti della stagione per l'Udinese, difesi a dovere da Okoye, saracinesca invalicabile per la rabbia biancoceleste. Roma è una festa, partecipano anche Samardžić e il ritrovato Biol, ci sarà bisogno di loro per l'ultimo miglio salvezza. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. È in programma oggi il primo dei 4 eventi formativi della seconda edizione del progetto A Proprio Agio, organizzati dall'Associazione Sportiva Udinese ASU e rivolti a istruttori sportivi, educatori professionali, insegnanti di sostegno e a tutti coloro che accompagnano persone con disabilità in palestra. Con la psicologa psicoterapeuta Raffaella De Carlo si parlerà di relazionarsi con genitori e bimbi con disturbi comportamentali e ritardi di sviluppo, come strategie e accortezze. Al Palaprexta di Udine oppure online sulla piattaforma Zoom con iscrizione obbligatoria dalle 20 alle 22. Sono le 7.45, partiamo con la rassegna stampa. Riti del Ramadan, l'intesa non c'è, è il titolo di apertura del Piccolo di Trieste. Il caso Monfalcone, la tensione resta alta, piazza blindata per evitare i raduni, sospese per ora le preghiere collettive. Accanto si parla di migranti, emergenza silos, in arrivo un Abba Camposacro. Nella fotonotizia centrale, crepe, sporcizie, transenne, viaggio a Cattinara, le criticità dell'ospedale, ostaggio dei cantieri. In cronaca, un patto tra 17 comuni di Italia e Slovenia per tutelare il Carso, poi il piano del centro storico da via Santa Tecla a viale Miramare e un lutto. Il medico Parma muore per un malore sulla pista da sci. Fra i richiami in alto, il centenario che si celebra in questi giorni, Basaglia e l'utopia rivoluzionaria al servizio del cambiamento, e il progetto di un museo della salute mentale a Gorizia per rilanciare il parco. La chiamata per i precari è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. Sul concorso per la scuola in regione il 30% del personale non è in ruolo. A centropagina tre punti d'oro per l'Udinese, salto in classifica, ora dietro ci sono 7 squadre. E ci sono in prima pagina anche le multe fino a 600 euro a Gemona fissate dal comune per chi abbandona rifiuti in strada. Poi la protesta a San Giorgio di Nogaro con 9 classi delle medie trasferite. In apertura della cronaca cittadina, il tavolo di giovedì in prefettura per trovare una nuova collocazione all'ufficio immigrazione della questura. Sul Gazzettino dorso del Friuli, il mistero dei 45 friulani scomparsi. In prima anche la fotonotizia con la vittoria dell'Udinese, i tre punti decisivi all'Olimpico, a fianco i contributi, la corsa all'albergo diffuso in taglio basso, il basket d'Elser e Old Wild West, la doppia felicità sotto i canestri. Nell'edizione di Gorizia del Piccolo la fotonotizia centrale è per la decisione della prefettura, bombe da disinnescare domenica l'evacuazione, l'operazione nei pressi della stazione transalpina in Slovenia. Tra le notizie di cronaca è partito il cantiere della pista ciclabile che unisce la Bisiaccaria e poi l'allarme dei pompieri in vista del 2025, mancano 50 uomini. Interporto a rischio, appello ai parlamentari, il titolo di apertura del Gazzettino, dorso di Pordenone per il polo logistico sparito, si legge dalla norma che regolerà il settore. Nel testo legislativo ora al Senato sono citati infatti Cervignano e Trieste, ma Pordenone non c'è. Nella fotonotizia rogo in fabbrica, 4 indagati per l'incendio di dicembre alla Mobile Fever di Azzano Decimo. A fianco la stabilizzazione di 42 precari della ricerca al CRO di Aviano. In taglio basso parcheggiare in città, missione impossibile. Accanto il parcheggio Candiani, eletto a dormitorio bivacco tra la stazione e il multipiano. Sul Messaggero Veneto di Pordenone cambiano i titoli di spalla, militare statunitense scomparso, il mistero del telefono, mentre proseguono le ricerche e anche qui indagati 4 operai per il rogo della Fever di Azzano. In apertura di cronaca cittadina, tecnologie contro gli incivili dei rifiuti, con le telecamere 5 violazioni al giorno individuate e anche accanto il Tetrapack, nuovo fronte della differenziata per evitare rincari. Ancora un appuntamento, il Museo della Comunità Ebraica di Trieste, Carlo e Vera Wagner, in collaborazione con la Dei Vizzo, sezione di Trieste, presenta un evento collegato alla mostra in corso fino al 10 maggio, Punti di luce, essere una donna nella Shoah. Alle 17.30 una visita guidata alla mostra sarà infatti seguita dal monologo di Giordana Tagliacozzo, tratto dal suo libro Il ritorno di Tosca, dal diario scritto dalla nonna Tosca di Segni Tagliacozzo, sopravvissuta alla Shoah. Nell'ambito del programma annuale delle manifestazioni di divulgazione umanistica, fotografia e medicina, conferenza di Alessandro Cosenzi a cura di Maurizio De Vanna, direttore della sezione medicina del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, nella sala conferenza della Biblioteca Statale Crisi alle 17. Alle 11.30 al Museo d'Arte Orientale di Trieste presentazione del ciclo di conferenze preistoria 2024 dedicate ai temi dell'archeologia preistorica e protostorica regionale. L'età dello tsunami è il titolo della conferenza che Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva terrale 18 al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, un talk show sul tema dell'adolescenza e della preadolescenza per comprendere cosa succede in un cervello in piena evoluzione che funziona in modo diverso rispetto a quello di un adulto. Scoprire antiche civiltà e il ruolo dell'archeologia nel turismo è la conferenza in programma alle 17.30 alla sala Bobby Basland di Palazzo Gopcevic a Trieste, evento collegato alla mostra Istri in Istria. Relatrici sono Angela Borzacconi, funzionario archeologo del Ministero della Cultura e direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, e Nadia Pasquale, giornalista ed esperta di marketing e comunicazione nel settore turistico. A Gorizia, carte, matita e inchiostri, problematiche di restauro, laboratorio a cura del Centro Studi e Restauro di Gorizia alle 17 a Palazzo Coronini-Cromberg per scoprire il mondo del restauro della carta e conoscere da vicino le tecniche e le competenze specifiche che i restauratori impiegano. Dalle 10.30 alle 12 al Teatro Don Bosco di Pordenone si terrà la premiazione del concorso nazionale Scrittori di classe, la magia del fantasy, storie ed emozioni al Summer Camp. Tra le 12 classi vincitrici, fra le quasi 30.000 partecipanti, c'è la classe prima A della scuola secondaria di primo grado Don Bosco Pordenone, che assieme alla coordinatrice di classe, professoressa Cinzia Visentin, ha scritto il racconto fantasy Domitilla e i Pois Magici. E a Trieste, nel Salotto Azzurro del Municipio, il sindaco Roberto Di Piazza consegnerà questa mattina alle 11 un riconoscimento ai gemelli Alessandro e Corrado Moratto, musicisti triestini, per l'attività musicale e culturale svolta a favore della lingua e della cultura giuliana. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vueo Fevelin D parlerà dell'ex caserma Francescatto di Cividale che passa al comune. A seguire alle 11.20 a Radar. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Alla parte tecnica Paolo Cassano e Eugenio Giuffrida, in segreteria ha collaborato Manuel Bussani. Da Lara Zani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.